24 mattino. Alle 7:20, una buona giornata, ben ritrovati da Laura Bettini. Tra pochissimo Giulia Crivelli ci accompagnerà attraverso le pagine dei giornali. Io vi ricordo soltanto il sondaggio di oggi, ne parleremo tra l'altro in bianco o nero a partire dalle 8:30 e parliamo di negozi sempre aperti e saldi tutto l'anno. Sareste voi d'accordo se così andassero le cose? I piccoli esercenti parteggiano, lo sappiamo, per il rispetto delle giornate di chiusura festiva e desiderano conservare i saldi come evento straordinario due volte l'anno, mentre i grandi esercizi commerciali e i consumatori spesso la pensano tutto all'opposto. Potete votare sul nostro sito internet. Come sempre, adesso parola a Giulia Crivelli. In primo piano. Buongiorno a tutti. Oggi il 5 gennaio, vigilia dell'Epifania, giornali pieni di notizie come al solito. Io cercherò di segnalarvi i titoli delle prime pagine, che oggi sono un po' diversi da giornale a giornale. A volte succede questo, a volte invece tutti i grandi giornali hanno lo stesso titolo. È curioso vedere appunto le scelte diverse che si fanno, e poi naturalmente spazio magari alle notizie che su un giornale ci sono e su un altro no. Cominciamo quindi dal Corriere della Sera. Fiat Napolitano chiede dialogo, questo è l'apertura del giornale, l'appello del capo dello Stato, e poi un richiamo a come sta andando il titolo. Sappiamo, ha debuttato due giorni fa, ieri c'è stato un altro rialzo, un balzo del 6,4% per le azioni dell'auto. Sappiamo che appunto il titolo Fiat è stato sdoppiato in due, da una parte quello che rappresenta soltanto il settore auto e dall'altro tutto il resto. Il Corriere della Sera ha un'intervista a Bonanni, leader della CISL, che dice: Susanna Camusso, leader della CGIL, pieghi i ribelli della FIOM. Questo è un riferimento all'altra grande questione che riguarda Fiat, oltre appunto alla quotazione in borsa, che è il referendum su Mirafiori, che la FIOM, la parte dei metalmeccanici della CGIL, ha già detto di non firmare. Dice Bonanni: se al referendum vincesse il no, ritireremmo la nostra firma dell'accordo, la CISL invece ha già firmato, perché la FIOM non fa lo stesso se vinceranno i sì. Questo è il Corriere della Sera. La Repubblica, anche qui la scelta è la stessa, cioè sull'appello di Napolitano, capo dello Stato, sul caso Fiat. Repubblica aggiunge un altro dettaglio nel titolo: la rappresentanza è un diritto. La Stampa, Quotidiano di Torino, idem. Fiat Napolitano invita al dialogo. In questo caso c'è un intervento di cui vi leggo solo le prime righe, che poi continua a pagina 5 della Stampa, di Walter Veltroni, ex numero 1 del PD, e l'intervento viene intitolato "Tutti devono cambiare qualcosa". Caro direttore, appunto un intervento che Veltroni ha inviato direttamente al direttore della Stampa Mauro Calabresi, i progressisti possono essere quelli che, per contrastare la cattiva innovazione, scelgono di opporsi a qualsiasi innovazione a difesa dell'esistente, o forse possono essere qualcos'altro. È l'implicito invito di Veltroni, appunto l'intero intervento a pagina 5. Il Sole 24 Ore ha un'apertura diversa, economica, anche se poi nella parte alta, quello che in gergo si chiama il palchettone, viene riportato l'appello di Napolitano al dialogo sulla Fiat, e il titolo invece principale è "Aria di ripresa per il dollaro e Wall Street". Il mercato europeo guarda al debito sovrano, in arrivo le aste per i bond salva stati, sale la fiducia degli analisti su economia americana e borse. Il Messaggero, quotidiano romano, anche qui titolo sulla Fiat: Napolitano, Fiat più dialogo. Il capo dello Stato scrive il Messaggero, sulle relazioni industriali serve un confronto costruttivo, e il ministro del welfare Sacconi ribadisce il suo impegno, il suo invito al sindacato, già rivolto molte volte da Sacconi, a rinnovarsi, perché se no, avverte Sacconi, si va verso contratti di settore. Vi segnalo dalla prima pagina del Messaggero un approfondimento di Rosario Di Mito intitolato "Controllo della Chrysler, le banche già al lavoro". Questo è un tema che avevamo visto nei giorni scorsi, appunto nel 2011, l'ha detto lo stesso Marchionne in varie interviste, noi avevamo letto quella al giornale ieri. Fiat potrebbe salire al 51% di Chrysler, e quindi scrive Rosario Di Mito: banche al lavoro per studiare il percorso che porterà Fiat al volante pieno di Chrysler. Un lungo pezzo che continua a pagina 3. Vi segnalo dal Messaggero l'articolo sulle manifestazioni che ci sono state ieri un po' in tutta Italia contro la mancata estradizione di Cesare Battisti, l'ex terrorista che in questo momento è in carcere in Brasile. Battisti in Piazza Roma, la protesta bipartisan per la mancata estradizione. Lo prendo appunto dal Messaggero, perché è stata a Roma la manifestazione più principale, quella con più persone. Restando sulle prime pagine dei giornali, passiamo a Financial Times, che titola invece sul prezzo del petrolio. Dice Financial Times: il prezzo del petrolio enters danger zone, cioè entra nella zona pericolo. Sappiamo che negli anni scorsi il petrolio è salito moltissimo per poi riscendere. Adesso, scrive Financial Times, è vicino ai $100 a barile. Questa è appunto quella che Financial Times definisce la zona pericolo, la danger zone. All'interno del Financial Times, nel secondo dorso, il dorso di finanza, quello che per esempio il Sole 24 Ore chiama finanza e mercati, c'è una fotonotizia con una foto di Dave Gilmour, l'ex leader dei Pink Floyd, perché finalmente Pink Floyd e la Amy, questa è la fotonotizia di Financial Times, hanno messo fine alla loro disputa, queste dispute tra le case discografiche e i singoli gruppi possono portare a richieste di danni di milioni di dollari, quindi e giustamente spesso le case discografiche sono quotate. Financial Times ne fa una fotonotizia. Vi segnalo però anche una notizia sulle vendite di auto in Cina, perché questo sarà un tema sicuramente dei prossimi anni, è uno dei pochissimi mercati che cresce tantissimo, e spiega Financial Times: nel 2010, dati definitivi non ci sono ancora, ma probabilmente in Cina le vendite di auto saranno state di 18 milioni, con una crescita sul 2009 del 30%, quindi insomma tutti i costruttori di auto, Fiat in testa naturalmente, che devono preoccuparsi del loro futuro, guardino al mercato cinese. Questo è l'implicito consiglio del Financial Times, perché lì veramente ci sono i tassi di crescita più alti. Dal Giorno vi segnalo l'apertura, perché in questo caso non è la Fiat, ma un titolo così: Battisti, l'Italia in piazza. Forse non è esattamente non rispecchia esattamente quello che è successo, perché non è proprio che le manifestazioni siano state così affollate, però questa è la scelta del Giorno. E a proposito sempre del caso Battisti, vi segnalo due interventi da Libero, che titola in realtà su questioni politiche: fini due punti sono ricattato, un uomo avrebbe minacciato di tirare fuori immagini compromettenti del Presidente della Camera. Questo è il titolo di Libero. Vi segnalo però invece dalla prima pagina di Libero appunto due interventi sul caso Pansa, uno sul caso Battisti, uno è di Giampaolo Pansa, vi racconto Battisti assassino da strada, e l'altro è di Giampiero Mughini, cari intellettuali, quante viltà su quegli anni. Il primo continua a pagina 10, è molto lungo, ripercorre l'intera vicenda Battisti, nel senso i quattro omicidi di cui per i quali è stato condannato, lo ricordiamo, all'ergastolo. E poi invece a pagina 10 segue l'intervento di Mughini. Proprio ieri avevamo letto la maca di Michele Serra, che invitava tutti a ricordare quegli anni e a magari a chiedere a chi c'era. Mughini e Pansa appunto c'erano e raccontano la loro verità. Diamo lo spazio al meteo, ci risentiamo tra pochissimo. In primo piano. E rieccoci con le prime pagine dei giornali. Abbiamo scorso quelle dei principali, ora vi segnalo quella della prima pagina del Giornale. Il titolo è molto sulla situazione politica: Bossi, Berlusconi, tutta la verità. Vi leggo una parte dell'editoriale, che è di Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, che dice: le due posizioni, quella di Berlusconi e quella di Bossi, divergono, ma soltanto apparentemente, da qui appunto il gioco delle parti. In realtà Bossi resta alleato leale del Premier e sta prendendo tempo, quello necessario a Berlusconi per tentare un allargamento della maggioranza sufficiente a garantire, oltre al federalismo tanto caro alla Lega, anche l'ordinaria amministrazione. Quanto tempo? Poche settimane. Questo scrive Sallusti, vediamo cosa significa poche settimane. Tra poche settimane andremo appunto a vedere se Sallusti ci aveva anticipato bene le mosse di Berlusconi. E conclude, tra l'altro, Sallusti scrive: operazione, il federalismo naturalmente è la grande richiesta della Lega, e in cambio Berlusconi sarebbe disponibile a un rimpasto di governo per riequilibrare la nuova compagine. E a proposito di rimpasto, vi segnalo, perché appunto mi viene da collegare le due cose, il titolo invece del Riformista, un quotidiano d'opinione, che titola: governo di spesa. Costa caro al piano del Premier per arrivare fino al 2013, secondo il Riformista. Rimpasti, Berlusconi ottiene il dietrofronte di Bossi sulle urne anticipate, ma Tremonti resta sulla linea del voto, non vuole che sulle casse dello Stato si abbatta il prezzo per allargare la maggioranza. Quindi insomma ancora molto confusa la situazione politica, forse come dice Sallusti appunto dobbiamo solo aspettare qualche settimana. Per tornare alle prime pagine dei giornali, il manifesto, fermi tutti, titola il manifesto con una foto scattata durante una delle manifestazioni contro il decreto Gelmini o una delle molte manifestazioni, non si capisce bene quale sia stata. E poi il manifesto ha, che vi segnalo, richiamata in prima pagina, un'intervista a Maurizio Landini, appunto il leader della FIOM, che contrappone il modello FIOM a quello Marchionne. È un'intervista molto lunga che trovate alle pagine 4 e 5, dove Landini spiega il referendum è illegittimo e le firme tecniche non esistono, quindi tutte le varie posizioni, si può approfondire appunto quella di Landini sul manifesto. L'Unità titola in prima pagina a caro prezzo, questo è un titolo che si riferisce a un'altra notizia di ieri che è quella sull'inflazione. L'inflazione è raddoppiata, in un anno rincari all'1,9%, trascinati da carburanti, come spesso accade, e alimentari. Tra l'altro anche le buste paga sono ferme nonostante l'inflazione, circa 9 milioni di lavoratori, scrive l'Unità, aspettano ancora il contratto e così la crisi è ancora più dura. Ancora l'Unità scrive, un paese diviso in due, il divario tra i redditi è sempre più ampio, cresce la povertà con punte altissime nel sud. La prima pagina del Secolo XIX ve lo segnalo perché vedo che ho notato nei giorni scorsi che spesso le notizie che poi dal Secolo XIX vengono riprese da altri giornali. Ieri non abbiamo fatto in tempo a segnalarlo, ma c'era una grande servizio sul fatto che non si trovano più croupier, non si vuole un lavoro stressante mal pagato, diceva il Secolo XIX. Oggi poi il Corriere riporta questa notizia che magari dopo avremo tempo di leggere. Oggi invece il Secolo XIX apre sulla Fiat, quindi Fiat il richiamo del Colle, Secolo XIX lo ricordo è il principale quotidiano di Genova, e poi ha questa notizia che trova ampio spazio all'interno, l'Australia tradisce le balene. Wikileaks, sempre Wikileaks che ci racconta ormai i piccoli, grandi e medi segreti del mondo, rivela l'intesa segreta, con appunto segreta, con il Giappone per le catture. E i Verdi, dice il governo, è contrario ma soltanto a parole. Sempre restando sulle prime pagine, la Padania oggi, parlavamo prima dell'importanza del federalismo per Bossi, per la Lega, quindi la Padania titola Bossi, il federalismo passerà. Il terrore delle urne aiuterà la riforma. Il leader della Lega, ieri sappiamo, era in Cadore per la cosiddetta cena degli ossi con il ministro dell'economia Giulio Tremonti. I decreti avranno i numeri perché se no lì sì che si va al voto. Questo è un virgolettato di Bossi. E vi segnalo però un intervento di Luca Zaia, che è l'ex ministro delle politiche agricole e ora governatore del Veneto, che dice governo fuori dalla palude, servono risposte. Oggi il governo assomiglia ad un maratoneta che ha il fiato corto, scrive Luca Zaia. Non sarà facile arrivare al traguardo di fine legislatura se lo stato di forma rimane questo. In un momento in cui al paese serve invece una maggioranza muscolare e stabile in grado di affrontare i temi prioritari e urgenti. Direi parole di buon senso, vedremo appunto lo scenario politico. È, come dicevo anche nei giorni scorsi, per me è molto difficile da decifrare, lo definirei semplicemente complesso, e vediamo di giorno in giorno cosa succede. Liberazione, la prima pagina, c'è una bella foto di Susanna Camusso, leader della CGIL. Il titolo è I dolori della CGIL. Non c'è solo la FIOM, l'accordo di Mirafiori, come prevedibile, sta lacerando lo stesso sindacato. Mentre la leader Camusso insiste sul fatto che al referendum bisogna votare sì, cresce il dissenso interno. Scontato quello di Rinaldini, che chiede l'immediata convocazione di un direttivo straordinario, ma dalla linea ufficiale si discostano anche la categoria dei pensionati e della funzione pubblica. Quindi un altro sindacato che appunto ha delle divisioni, un altro sindacato come tantissimi partiti, perché c'è anche il PD, anche il sindacato, che un partito non è però una grande organizzazione, ha delle sue lacerazioni interne. Forse la crisi produce anche questo, non si riesce a essere uniti, ma a volte favorisce le divisioni. Passiamo alla prima pagina della Gazzetta dello Sport, perché in qualche modo anche qui il titolo è legato alla politica. Infatti titola la Gazzetta Berlusconi arringa il Milan. Milan. Il cavaliere Silvio Berlusconi ieri appunto è stato tra i giocatori della sua squadra e dice: Cassano è il giocatore italiano di maggior talento. C'è un articolo di Luigi Garlando, un commento che dice: a Roma, città del governo, Silvio Berlusconi ha ritrovato ufficialmente il suo più fedele alleato politico, il Milan. Lo ha annunciato ieri mattina ai suoi giocatori, solennemente schierati alla Borghesiana come ministri pronti a giurare. Dice, aperto il virgolette, quando vincete, è un virgolettato di Berlusconi, aiutate il governo e fate il bene, fate bene all'Italia. È un articolo che continua a pagina 2. Passiamo alla prima pagina dell'Avvenire. Qui il titolo è ancora sulla tragedia dell'attentato davanti alla chiesa copta che il giorno di Capodanno ha ucciso 21 cristiani. Vietato aiutare i cristiani. Questo titolo è riferito al fatto che ieri, e l'Avvenire è l'unico quotidiano che mette questa notizia in prima pagina, è stato ucciso in Pakistan il governatore pro-Asia. L'Europa non si muove per i copti egiziani, approfondisce l'Avvenire. Colpito il leader del Punjab che era intervenuto a favore della donna condannata con la legge antiblasfemia. E a questo proposito vi segnalo che questa notizia dell'assassinio di questo governatore pro-Asia in Pakistan è addirittura l'apertura dell'International Herald Tribune, che si autodefinisce l'edizione globale del New York Times, che appunto dice che questo assassinio arriva in un momento già politicamente difficile per il Pakistan, e sappiamo che ruolo abbia il Pakistan in quel complesso scacchiere che è quell'area dove tra l'altro in Pakistan si dice sia ancora nascosto Osama Bin Laden, il leader di Al-Qaeda. Quindi sempre gli avvenimenti che succedono in Pakistan sono sempre da tenere sotto controllo per appunto cercare di capire che cosa succede in quell'area. Però dalla prima pagina dell'Avvenire vi segnalo, come ho fatto ieri, il mattutino di Gianfranco Ravasi, si chiama Il Foglio il punto nero. Gianfranco Ravasi sceglie sempre una citazione da un libro e poi la commenta. Questa è la citazione da un testo sacro indù. La citazione è: un maestro indù mostrò un giorno ai suoi discepoli un foglio di carta con un punto nero nel mezzo. Che cosa vedete? Chiese. Un punto nero, risposero. Nessuno di voi è stato capace di vedere il grande spazio bianco, replicò il maestro. E Gianfranco Ravasi scrive: è questa la legge che fa riempire di cronaca nera i giornali e le televisioni. Un solo delitto ha più peso di 1000 atti di generosità e d'amore, secondo i parametri dell'informazione. Anche noi siamo pronti a cogliere la pagliuzza nell'occhio dell'altro e ignoriamo la luminosità sorridente di tanti sguardi. È normale elencare tutte le amarezze dell'esistenza e ignorare la quiete e le gioie che pure accompagnano la maggior parte dei nostri giorni. Il nostro pensiero si fissa con più facilità sui punti neri nel cielo della storia che non sulle distese di azzurro e di luce. Certo, non si deve essere così ottimisti o ingenui da ignorare il male che pure costella le vicende umane, ma non è giusto considerare come marginali la meraviglia dell'alba e dei tramonti, lo stupore del sorriso dei bambini, il fascino dell'intelligenza, il calore dell'amore. Il sì è più forte del no. E in questa linea, scrive sempre Ravasi, vorremmo aggiungere un'altra nota. Ce la offre Pirandello nel suo dramma Il piacere dell'onestà. Quando il protagonista dichiara, è molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto, galantuomini si deve essere sempre. E conclude Ravasi, c'è un eroismo quotidiano che non fa suonare le trombe davanti a sé, ma che ha in sé una grandezza ben più gloriosa. Questa era la prima pagina dell'Avvenire. Ora magari passiamo a scegliere magari qualche articolo di approfondimento dai singoli giornali. Partiamo dal Corriere della Sera. Questo è a pagina 6, un primo piano a cura di Lorenzo Salvia, molto utile per tutti quelli che i genitori che hanno a che fare con le iscrizioni dei figli a scuola. Iscrizioni ed esami, guida in 6 punti. La scadenza per l'iscrizione ai primi anni, l'ultimo esame di terza media con le regole, l'ulteriore slittamento del bonus all'esame di maturità, l'arrivo dei test invalsi anche alle superiori, i prepensionamenti o i pensionamenti degli insegnanti. L'anno scolastico è quasi al giro di boa, dopo i continui interventi per legge e per decreto degli ultimi tempi sono tante le novità che studenti, genitori e insegnanti devono tenere sotto controllo. E queste appunto le elenca tutte il Corriere della Sera, una sorta di guida molto utile. Dal Corriere della Sera vi segnalo un articolo che ho trovato divertente, forse perché mi era piaciuto molto il film da cui prende spunto. L'articolo si intitola In Corea del Nord l'Occidente arriva col sorriso di Kyra. Sognando Beckham era uno dei primi film, forse il primissimo, di cui era protagonista Kyra Knightley, che poi è diventata praticamente una star. Era il film in cui si narrava lei era una giovane giocatrice di calcio, e questa è stata appunto il primo, la commedia, che è un film in realtà del 2002, però finalmente esce un film occidentale in Corea del Nord. La Corea del Nord parte appunto da questo. Il Corriere della Sera ha poi un approfondimento sul terremoto che nei primi giorni di aprile, non ricordo esattamente il giorno, colpì l'Aquila, devastandola come sappiamo, e oggi la notizia è che la Caritas protesta contro il sindaco dell'Aquila, perché la Caritas dice ci sono 17 dei nostri progetti bloccati, il comune però ribatte, sono contrari al piano regolatore. Questa è appunto un'altra tragedia, quella del terremoto dell'Aquila e poi tutta la vicenda della ricostruzione, che ogni tanto ci perdiamo un po' per strada, ma non è per nulla archiviata, perché L'Aquila è ancora di fatto una città fantasma e la ricostruzione langue all'Aquila e non solo, in tantissimi altri paesi dell'Abruzzo colpiti da quel terremoto nell'aprile del 2009. Dal Corriere della Sera vi segnalo una pagina intera dedicata alla fiera che si è aperta ieri a Las Vegas, la fiera dell'elettronica. O meglio si apre oggi, però è stata presentata ieri. C'è quella che il Corriere della Sera definisce la carica degli anti iPad, 100 nuovi modelli con prezzi low cost. L'iPad, lo sappiamo, quel tablet PC, cioè quella tavoletta che è lanciata dalla Apple, che però vanta già numerosi tentativi di imitazione, e a questa fiera di Las Vegas ne vedremo tantissimi altri. Sul tema iPad vi segnalo un articolo di Luca De Biase dalla prima pagina del Sole 24 Ore, che poi continua a pagina 13, che si intitola "Con l'iPad corsa alle edicole virtuali". Ci vorrebbe un'edicola dove trovare tutti i giornali disponibili per i tablet. Appunto, l'iPad è uno, però ci sono poi tutti gli altri tablet PC, ma non c'è. Scrive Luca De Biasi, ci vorrebbe un vero luogo del mercato dove confrontare prezzi e prodotti in quella che potrebbe essere la nuova frontiera della distribuzione di informazione, ma non c'è. Ora le application per l'iPad realizzate dagli editori di giornali si trovano insieme a tutte le altre, sappiamo che sono migliaia, nell'App Store. Questo l'ho aggiunto io, che sappiamo che sono migliaia. Scrive invece Luca De Biase, l'App Store non mostra la copertina, non sottolinea le novità, non consente offerte speciali e tante altre idee di marketing alle quali il mercato editoriale ha imparato ad affidarsi per sostenere le sue vendite. E dice Luca De Biase, qui c'è un'opportunità. E poi ci spiega che per esempio Google, il grande motore di ricerca, che ormai non è più soltanto un motore di ricerca, sarebbe pronto appunto a cogliere questa opportunità di creare una vera e propria edicola virtuale per tutte le application dedicate ai giornali. Ci lasciamo un attimo per le notizie sul traffico, ci sentiamo subito dopo. In primo piano. Rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli. Stavamo, dopo aver scorso i titoli delle prime pagine dei giornali, guardiamo invece gli approfondimenti e da Repubblica vi segnalo un lungo articolo di Jenner Meletti intitolato "Dalla Puglia all'Emilia Romagna, il grande tubo che bucherà l'Italia". Ci racconta Jenner Meletti di questo gasdotto, si chiama gasdotto Adriatica, che toccherà 10 regioni e 3 parchi nazionali, e proprio perché appunto, benché sottoterra, toccherà questi parchi, quindi bisognerà scavare per completare il gasdotto. Ci sono molte associazioni ambientalistiche che protestano. Nella stessa pagina vi segnalo un trafiletto che è intitolato "Il giallo del container radioattivo fermo da 5 mesi nel porto", anche questa è decisamente una questione ambientale, e qui il riferimento è a una notizia che dà il Secolo XIX, il quotidiano di Genova, che, se avete occasione di comprare, alla vicenda dedica in realtà oggi 2 pagine intere. "Caccia container pieno di esplosivo", è la scoperta appunto di questo container T4 Gioia Tauro, e ora che si cerca di capire se dove sia finito esattamente, quanto sia effettivamente pericoloso. Quello dei container degli spostamenti via nave di questi enormi contenitori, che appunto si chiamano container, è un argomento estremamente interessante anche dal punto di vista economico, e a volte poi tra l'altro è molto difficile controllare, capite bene quanto sia difficile controllare uno a uno questi container in dogana o nei porti. Vi segnalo invece sempre da Repubblica una piccola rubrica di Enrico Franceschini che mi ha incuriosito, si chiama Italia paese del pessimismo. La Francia è il paese più pessimista della terra, la Nigeria è il più ottimista, lo afferma, scrive Enrico Franceschini, il Barometer of Hope and Despair, barometro della speranza e della disperazione, un sondaggio internazionale affiliato al rispettato istituto Gallup, condotto su un campione di 60.000 persone in 54 nazioni, quindi insomma un bel campione. Sembra un verdetto paradossale o ridicolo, ci sono certamente più nigeriani italiani che sognano di trasferirsi a Parigi di quanti francesi desiderino andare a Lagos, capitale della Nigeria. Ma uno sguardo al resto della graduatoria ne spiega il senso. Dietro la Francia, tra i paesi più pessimisti, compaiono Gran Bretagna, Spagna, Italia e poco distanti Giappone, Stati Uniti e Germania. Dietro la Nigeria, tra i paesi più ottimisti, figurano Vietnam, Ghana, Cina, Brasile e Kosovo. La statistica fotografa insomma la realtà. L'Occidente industrializzato, preoccupato e consapevole del proprio inevitabile declino, il mondo in via di sviluppo animato da speranze di cambiamento e fiducia nel progresso. È la globalizzazione vista non con i nostri occhi eurocentrici, bensì con quelli degli altri, i popoli emergenti, che sono poi numericamente la maggioranza. E però, se insomma in tema di pessimismo, mi viene da fare il collegamento con un altro articolo sempre su Repubblica, intitolato La Top Ten, questa Top Ten stilata dalla rivista Wallpaper, che è una rivista che si occupa di moda, design, britannica, molto, insomma, che viene molto letta in certi ambienti, e in questa classifica dei top 10, insomma, ci sono tre cose italiane, perciò forse pessimismo sì, ma cerchiamo sempre di ricordarci quanta creatività, che forse è ancora l'arma migliore dell'Italia, quanta creatività c'è nel nostro paese. E appunto la miglior collezione moda donna, secondo Wallpaper, è quella di Prada. Il miglior edificio pubblico, secondo Wallpaper, è il Maxi, il nuovo museo che viene definito allestimento spettacolare per l'arte di Roma, e poi c'è la miglior collezione uomo moda, che è quella di Gucci. La designer di Gucci è Frida Giannini, naturalmente un'italiana, che ripropone lo stile anni 70 ma con grande attenzione ai materiali e al lavoro artigianale. Quindi, insomma, non so, possiamo provare a essere ottimisti appunto pensando a quanta creatività produciamo. Da Repubblica vi segnalo un articolo di Curzio Maltese sul nuovo film di Clint Eastwood che esce oggi nei cinema, si chiama Hereafter, e viene definito il bellissimo ultimo film del regista, che attraverso tre storie e tre personaggi parla a suo modo dell'aldilà. Un racconto avvincente con un inizio terrorizzante che insinua il dubbio anche nei più scettici di una possibile vita oltre la morte. Vi leggo l'ultimissima parte dell'articolo di Curzio Maltese. La parte più controversa di Hereafter riguarda i ripetuti accenni a presunte prove documentali dell'esistenza di qualcosa oltre il mondo terreno. Chissà se esistono davvero. In ogni caso tutti, credenti e non, possono consolarsi. Se la dimostrazione scientifica dell'aldilà è ancora da trovare, in compenso esiste almeno una prova evidente e inconfutabile che gli uomini, nonostante l'inesorabile morte delle cellule, possono continuare a crescere, maturare in profondità e creatività fino agli 80 anni suonati e oltre. Questa magnifica prova vivente si chiama Clint Eastwood. Solo questo stesso film vi segnalo un piccolo articolo che è sulla prima pagina di oggi del Secolo d'Italia. È un articolo di Maurizio Bruni che riprende, si intitola Clint Eastwood piace anche in Vaticano, perché riporta le parole scritte sul sito di Radio Vaticana su questo film Hereafter di Clint Eastwood. L'emittente d'Oltretevere approva in pieno la pellicola del regista ottantenne, che stavolta affronta il tema delicato della morte dell'aldilà. Eastwood è capace, si legge sul sito internet della Radio Vaticana, come sempre, di affrontare temi delicati e non facili con una singolare personale sintassi cinematografica. Questa volta le strade dolorose di tre personaggi che in diverso modo hanno contatti con l'aldilà inaspettatamente si incrociano per condividere dolore, consolazione e speranza. Quindi viene sicuramente una gran voglia di andarlo a vedere. Esce oggi in tutte le sale d'Italia. Dalla Stampa vi segnalo un approfondimento su quella che la Stampa definisce la prossima guerra civile che potrebbe colpire la Costa d'Avorio. Migliaia di profughi dal paese con due presidenti. Sapete che c'è, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, un presidente eletto, Alassane Ouattara, e un ex presidente, Laurent Gbagbo, che però rifiuta di lasciare il posto. E quindi, secondo la Stampa, ma nei giorni scorsi questa notizia veniva riportata anche da molti altri giornali, c'è appunto il rischio guerra civile in Costa d'Avorio. Dalla Stampa vi segnalo una storia secondo me bellissima, insomma tragica ma allo stesso tempo divertente da leggere, che è quella dei bombi. I bombi, secondo la Stampa e secondo gli entomologi, stanno calando inesorabilmente in America. C'è un calo inspiegabile del 96%. La strage dei bombi americani, il bombo secondo me è un animale bellissimo, è quella gigantesca vespa, e a volte sono un po' confusi con i calabroni, credo che siano leggermente diversi, e hanno hanno un ruolo parallelo a quello delle vespe, cioè l'impollinazione. E secondo la stampa, secondo gli entomologi, questi i bombi, inspiegabilmente, di nuovo, come anni fa c'era stata una strage di api, inspiegabilmente stanno scomparendo. Questo potrebbe essere appunto gravissimo, perché dall'impollinazione poi è tutto un ecosistema che potrebbe essere messo in crisi da questa strage dei bombi. Speriamo che non sia così. Il bombo, ripeto, secondo me è un animale simpaticissimo. Tra l'altro c'era stata anni fa, e a volte viene riportata, quella ricerca di alcuni fisici secondo i quali appunto il bombo tecnicamente non potrebbe volare, in realtà vola benissimo, fa anche un gran rumore, come sappiamo, e quindi a volte, come la natura abbia delle leggi incomprensibili, a uno studio prettamente scientifico. Vi segnalo dalla stampa poi un'inchiesta sul clientelismo e privilegi di un mostro chiamato Regione, la Regione Sicilia. Viene riportato un stralci di un libro che si chiama La Zavorra, scritto da Enrico Del Mercato e Emanuele Lauria, con una prefazione di Gian Antonio Stella. Una delle tante cifre riportate in questo libro, che la stampa definisce agghiacciante, è 144.147, che sarebbe il numero degli stipendi che paga ogni mese mamma Regione Siciliana, più del doppio della Fiat, visto che parliamo tanto di Fiat in questi giorni, la maggiore industria italiana, oppure l'intera popolazione di una città come Salerno, anziani e neonati compresi. Vi segnalo, oggi è mercoledì e cioè ne dicono anche Vanity Fair, che è un settimanale secondo me molto godibile, non è né femminile né maschile, lo possono leggere tutti. In copertina c'è Raul Bova, e per richiamare la lunga intervista che c'è all'interno, in copertina viene riportato un suo virgolettato: la fedeltà è un valore, ma un cedimento lo capirei e non butterei via tutto per un singolo episodio. Questo virgolettato tratto da Un giorno su una spiaggia in Sudafrica a parlare d'amore. Da Vanity Fair vi segnalo anche un articolo all'interno su Isabel Caro, la ragazza, forse molti la ricorderanno, è una ragazza anoressica che è morta nel novembre scorso, ma la notizia è stata data la settimana scorsa. Pesava 31 kg, era alta, aveva solo 28 anni, era alta 1,64 m, e Vanity Fair riporta stralci delle interviste che la stessa Isabel Caro aveva rilasciato a questo settimanale, e che forse è semplicemente un invito a ricordare quanto pericolosa sia questa malattia. È una malattia mortale a tutti gli effetti, e quanto ancora anche misteriosa sia, non se ne conoscono di fatto le cause, e soprattutto non è ancora stata messa a punto una cura. Dalla stampa vi segnalo l'intero supplemento Tutto Scienze. Comincio dall'articolo principale, anche questo secondo me è bellissimo, sempre in tema di misteriosità e quanto affascinante però sia anche questa misteriosità della natura: i pensieri segreti delle piante. Dalla mimosa sensitiva alla cuscuta parassita, scrive Giorgio Celli, ci sono degli exploit sorprendenti. Il vecchio stereotipo della passività delle piante è continuamente contraddetto da osservazioni ed esperimenti. Non abbiamo tempo per altre segnalazioni, ma vi assicuro che anche oggi i giornali sono pieni di approfondimenti, cibo per la mente, come diceva Oliver Sacks lunedì sulla Repubblica. La mente può essere esercitata, può continuare a crescere, quindi leggete i giornali anche sull'iPad se volete. Da Giulia Crivelli un'ottima giornata, a domani. 24 mattino, l'intervista. In America pare ci si alza sempre prima al mattino, tanto che le reti televisive si stanno adeguando. Un tempo di notte, stiamo parlando di una fascia infatti che va dalle 4 alle 5 del mattino, ci si trovavano solo repliche nelle televisioni anche americane. Adesso invece si pensa, a quanto pare, a ravvivare questa fascia, soprattutto con l'informazione, con telegiornali vivi e calibrati su telespettatori che a quell'ora antelucana sono già in attività, e quindi un po' meno tristezze, un po' più buone notizie, molto traffico, perché a quanto pare tra di loro ci sono molti pendolari. Pare sia anche un buon pubblico per gli investitori pubblicitari. Allora veniamo in Italia. Uno che di mattina in televisione se ne intende è Franco Di Mare, giornalista, ora conduce gli spazi del TG1 nell'ambito della trasmissione Uno Mattina. Buongiorno. Buongiorno a voi. Uno Mattina, trasmissione storica della RAI, in onda per l'appunto al mattino. E allora ti chiedo subito, avete tirato indietro l'orologio anche voi? Sì, di una quarantina di minuti, adesso cominciamo alle 6 invece che alle 6.40 con Guido Barlozzetti, che è una colonna di Uno Mattina, si occupa di attualità, dei temi, diciamo così, che sono le prime pagine dei quotidiani o magari delle pagine interne, ma anche temi di economia e di finanza, cioè il dibattito del giorno, diciamo così. Lui lo anticipa un po' alle 6 perché abbiamo notato che in realtà c'è una domanda. che veniva un po' presa sotto gamba, veniva evasa completamente dalla RAI, che fino a quell'ora metteva in onda repliche di programmi, telefilm o magari documentari. È un po' come tutti, diciamo la verità, insomma. E invece la domanda arriva da chi? Avete un'idea? Sono appunto lavoratori, pendolari, persone che si alzano presto per lavorare? Noi non abbiamo ancora fatto una indagine di mercato, ma ci siamo resi conto che la concorrenza diretta, cioè Canale 5, rosicchiava punti di share a nostro danno mettendo, pensa un po', il rullo, cioè mandando in onda semplicemente notizie uno dietro l'altro senza conduttore. E ci siamo resi conto che in realtà c'era una richiesta e un gradimento, esisteva una quota di mercato dell'informazione che aveva bisogno di informazioni rapide su tutto quanto avveniva quel giorno, su tutto quanto erano le prime pagine dei quotidiani edicola. Cioè, quindi svecchiare un po', ecco, non più il telegiornale della sera, ma quello che ci sarà nella mattinata anche. Esattamente. Se perdiamo qualche punto di share a vantaggio di un rullo che è semplicemente un andare via delle notizie così senza nessun conduttore, vuol dire che evidentemente c'è una richiesta che noi non riusciamo a intercettare, per cui abbiamo anticipato alle 6 il dibattito sull'attualità e la cosa sta pagando. Anche io per esempio, che dalle 7 in poi mi occupo di attualità, ma non faccio più la rassegna stampa, perché la rassegna stampa viene anticipata da altri concorrenti, cioè tutti fanno la segna stampa, Sky, tutti quanti. Mi sono reso conto che in realtà animando il dibattito, vengo subito dopo il telegiornale, dalle 7 alle 7.10 c'è il TG, subito dopo vengo io entro a gamba tesa nel dibattito con, per esempio oggi siamo occupati di influenza, con esperti del liceo. E quindi insomma si parte col tema della giornata in questo modo. Esattamente. E funziona, paga, perché stiamo recuperando sul piano degli ascolti. Vedi, quindi l'informazione, ce lo diciamo anche noi che a Radio 24 ne facciamo tanta, insomma, paga, interessa. Assolutamente. Basta non essere sui temi del giorno prima, ma su quelli del giorno stesso. Con che scelta, con che criterio scegli? Anche tu cerchi di essere, come pare facciano gli americani, un po' meno opprimente, magari un po' più di respiro? Cerchiamo di mettere, come dire, un sorriso anche nelle notizie drammatiche. Oggi, per esempio, la notizia dell'influenza è una notizia che ha un aspetto drammatico: 39 morti in Gran Bretagna, 2 in Germania, il primo in Italia, in Friuli, è una roba che può allarmare. Se noi l'affrontiamo con un sorriso dicendo attenzione, la volta scorsa ci siamo allarmati per nulla, non ripetiamo gli errori che abbiamo commesso mesi fa, questa volta è un problema vero, ma si può affrontare con cautela, con attenzione, senza allarmismi. Ecco, quindi se ci metti un sorriso, tenendo conto che tu stai svegliando le persone si svegliano con te, accendono, sei il loro cappuccino e il loro cornetto in qualche maniera, non puoi essere drammatico fin dai primi momenti del mattino, quindi cerchiamo di essere anche morbidi, ecco. Cercate di essere anche morbidi, tra pochissimo tu torni in onda, quindi adesso noi ti lasciamo al tuo lavoro, ti ringraziamo molto per essere stato grazie con voi. Noi e a buone notizie, insomma. Buone notizie, buona giornata a tutti. A risentirci a Franco Di Mare, ricordiamo giornalista a Rai 1, volto notissimo della televisione. Noi tra poco ci interroghiamo a bianco e nero sul tema del giorno, che è negozi sempre aperti e saldi tutto l'anno. Voi sareste d'accordo? Quelli che hanno votato sul nostro sito internet al momento sono per la maggioranza dei sì, quindi preferirebbero negozi sempre aperti e saldi tutto l'anno, ma i piccoli esercenti invece parteggiano per il rispetto delle giornate di chiusura festiva, desiderano che i saldi restino un evento straordinario, e quindi di tutto questo parleremo e ci confronteremo dopo il meteo e la pubblicità. 24 mattino. Allora, eccoci per il bianco o nero di oggi. Vi ricordo, negozi sempre aperti e saldi tutto l'anno. Sareste d'accordo? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Come sempre, per votare c'è il nostro sito internet, ma per intervenire 800 24 00 24 oppure gli sms al 349 238 6666. Il caso su cui abbiamo cominciato a ragionare ieri nel costruire questa puntata è quello di Reggio Emilia. Era un po' su molti giornali. Scontro sull'apertura dei negozi il 6 di gennaio, giorno della festa dell'Epifania, quindi giorno anche di riposo. Un giorno invece che è stato scelto dalla giunta regionale per l'avvio dei saldi. Il vescovo della città di Reggio Emilia ha contestato duramente questa scelta. CGL, CISL e UIL di Reggio Emilia si sono in pratica uniti a lui, hanno poi annunciato anche uno sciopero dei lavoratori del commercio proprio per il 6 di gennaio. In questa specifica situazione la Confcommercio locale si è schierata invece per l'apertura dei negozi, non fa così normalmente per quanto riguarda le chiusure festive, ma sullo specifico della situazione sentiamo Donatella Prampolini, presidente Confcommercio Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io le chiederei intanto il perché di questa decisione della Confcommercio in questa specifica situazione del 6 di gennaio, perché sappiamo che più spesso invece la posizione è opposta, cioè rispetto delle chiusure nei giorni festivi. Certo, noi siamo sempre stati molto critici sulle aperture domenicali perché teniamo presente che la nostra base associativa è fatta in maggior parte da piccoli commercianti che ovviamente devono sopperire poi ai nuovi turni di apertura con la loro presenza fisica, quindi tolgono veramente tempo alle famiglie e alle proprie attività personali. Per cui se normalmente noi siamo contrari alle aperture domenicali, in questo frangente, considerando che veniamo da un 2009 molto difficile per il commercio, da un 2010 al altrettanto critico, non potevamo dire di no, perché l'apertura dei saldi è un momento assolutamente topico per le attività dell'abbigliamento e delle calzature, che vengono da un periodo peraltro ancora più lungo di crisi, quindi non si poteva assolutamente dire di no e dare un vantaggio competitivo alle province limitrofe o alle regioni limitrofe. Che non hanno appunto avuto problemi nell'accettare questo 6 di gennaio. In questo caso quindi siete su fronti opposti rispetto a quello dei lavoratori della categoria, diciamo. Normalmente no, perché comunque marciate di pari passo, perché vedo anche per esempio Filcams, CGL, ma anche tutte le altre sostengono la necessità di mantenere un numero limitato di aperture domenicali e festive, quindi c'è un accordo che però spesso i consumatori non capiscono. Questo voi lo sapete, insomma. Ma guardi, devo dire che non si può generalizzare quello che succede a Reggio rispetto a quello che succede magari in altre province che hanno una vocazione turistica. Allora, Reggio è una città che purtroppo non ha una vocazione turistica, il turismo di Reggio è un turismo più che altro d'affari, quindi che va dal lunedì al venerdì. L'apertura domenicale in questo caso non ha un grandissimo senso per due motivi. Il primo è quello che gli ho detto prima, cioè visto che la maggioranza delle attività commerciali è gestita da imprenditori singoli o con la famiglia e che quindi devono sobbarcarsi degli ulteriori orari di lavoro, veramente va a penalizzare lo stile di vita dei nostri commercianti. Ma poi c'è anche un problema dal punto di vista economico, cioè noi oggi non è che la domenica andiamo ad intercettare una richiesta ulteriore fatta dai consumatori, non andiamo a prendere delle quote di mercato che oggi stiamo lasciando in giro. Noi quindi lei dice i consumatori... I consumatori piace uscire la domenica, trovare i negozi aperti e magari comprano qualcosa, ma non è un grande vantaggio. Non è così vero, perché se noi andiamo a vedere i dati di vendita la domenica, quando ci sono appunto le 8 domeniche di apertura, effettivamente dei grossi affari non se ne fanno, a meno che non ci siano delle attività come delle feste di quartiere, piuttosto che dei mercati straordinari, piuttosto che delle occorrenze vere e proprie. Ma diversamente noi andiamo a polverizzare quella torta che è sempre quella, quindi l'acquisto del sabato non lo si fa il sabato ma lo si fa la domenica, quindi anche dal punto di vista economico l'apertura domenicale ha un costo che non viene assolutamente poi ripagato da quello che è l'incasso. Gioco non vale la candela. Senta, no. Prima di presentare anche tutti gli altri ospiti voglio chiedere, perché è una domanda che ci facciamo da almeno 24 ore, perché i saldi iniziano in ogni regione in momenti diversi, addirittura in ogni città in momenti diversi? C'è un motivo storico? È il vero problema. Ed è per questo che noi abbiamo appoggiato la richiesta di aprire il 6 gennaio, perché c'è la necessità assolutamente di avere una data unica, omogenea, possibilmente per tutta Italia, ma quantomeno per macro aree, perché diversamente si fa veramente un gioco al massacro, nel senso che l'anno scorso, dove non c'era una data concordata con le regioni limitrofe, siamo arrivati a forza di togliere i giorni al 2 gennaio per l'inizio dei saldi, che è veramente una cosa abbastanza assurda e che ha rovinato ulteriormente le vendite natalizie. Quindi insomma la necessità di avere un giorno unico, che era stato individuato nel 6 gennaio per una serie di motivazioni, anche per lasciare una data certa tutti gli anni al consumatore, perché il consumatore che sa che il 6 gennaio ogni anno iniziano i saldi riesce poi ad organizzare i propri acquisti. Ma se c'erano questi, perché poi comunque era prevedibile, ci sarebbero stati dei problemi, al momento della decisione non si poteva fare il 7 gennaio? Ma guarda, dico che non era prevedibile che ci fossero problemi, perché voglio anche dire una cosa, prima del decreto Bersani che ha stabilito le 8 domeniche di apertura, le domeniche di apertura erano esclusivamente quelle del periodo natalizio, che comunque finivano sempre col 6 gennaio, quindi il 6 gennaio fino a qualche anno fa è sempre stata una giornata lavorativa, quindi questo alzarsi di scudi che è successo nel 2011 anzi, non ha alcun senso, perché sappiamo perfettamente che chi opera nel commercio ha un periodo di superlavoro che è il periodo natalizio, che normalmente finisce appunto con il 6 gennaio, quindi credo che la polemica sia abbastanza strumentale, soprattutto alla luce di quello che è l'andamento del settore di questi anni. Certamente si poteva iniziare il 7, l'8 o anche l'11, ma purché fosse concordato con le altre regioni. Tra tutti. Il momento di appunto presentarvi gli altri ospiti che abbiamo. Mauro Bussoni, vice direttore generale della Confesercenti, buongiorno. Buongiorno a voi. E Paolo Barberini, presidente di Feder Distribuzione, buongiorno anche a lei. Allora, abbiamo introdotto i due temi che sono fondamentalmente quello dei saldi che affronteremo per primo e quello poi delle aperture domenicali e più in generale festive. Cominciamo dai saldi. Bussoni, le voglio leggere qualche passaggio di un articolo che abbiamo scovato su Libero di ieri. Scrive Andrea Scaglia, ma non si potrebbe, perdonate l'ardire liberista, consentire ai negozianti di stabilire per tutto l'anno i prezzi a cui vendere la propria merce e poi qualcuno potrà scegliere di contrarre periodicamente il margine di guadagno, magari puntando sulla quantità, altri sceglieranno diverse strategie commerciali, viceversa puntando su articoli esclusivi e prezzi anche più alti. Lei che ne dice? Insomma, i saldi vanno un po' liberalizzati, vanno un po' sbloccati da questi due periodi dell'anno che per ora sono quelli che li ospitano, inverno e estate? Guardi, il fatto di poter praticare una politica dei prezzi, delle vendite, quindi una politica commerciale libera, fa parte ovviamente dell'attività, quindi i singoli imprenditori stabiliscono il margine di guadagno, stabiliscono quando un prodotto comunque può essere venduto ad un prezzo più basso rispetto a quello originariamente previsto. I saldi rappresentano un momento particolare, un'offerta particolare nei confronti dei consumatori e anche qui in genere si pensa al settore dell'abbigliamento come settore principe. I saldi rappresentano per gli imprenditori del commercio un momento particolare, quelli invernali noi stimiamo possano rappresentare circa il 20-30% del volume d'affari di ogni singolo imprenditore. È ovvio che se si dovesse andare ad una liberalizzazione non ci sarebbero più i saldi, sparirebbero, quindi ogni imprenditore farebbe una propria politica, non ci sarebbe più questo effetto annuncio che invece è un effetto importante. È un'opportunità per i consumatori perché hanno la possibilità di raffrontare più offerte, hanno la possibilità di confrontare le diverse opportunità che vengono loro presentate, dà la possibilità anche ai piccoli imprenditori che non avrebbero le condizioni di poter fare una campagna pubblicitaria e promozionale adeguata rispetto alle grandi catene di entrare in gioco, quindi la data unica alla quale si faceva riferimento prima è una data importante. Purtroppo, ma chi la deve decidere questa data? Vede, se voleste mettervi d'accordo a livello nazionale. Le norme prevedono che siano le regioni a farlo. Quest'anno si è cercato un accordo fra tutte le regioni, tant'è che comunque nell'80% delle regioni italiane quest'anno i saldi parleranno il 6 di gennaio, solamente in alcune regioni sono partiti il 2 di gennaio, credo che il prossimo anno si farà ancora meglio. Il problema vero è che questo è un settore in crisi ormai da 3-4 anni, che i saldi tendono ad essere sistematicamente anticipati, perché la stagione invernale non è stata una stagione buona, quindi c'è l'esigenza. Certo, già a Natale c'erano degli saldi mascherati. Ecco. Perfetto. Si tratta di stabilire poche regole, perché non ha senso fare molte riempire di regole comunque attività che vivono nella logica del libero commercio, però poche regole fisse, valorizzare il saldo perché rappresenta un'opportunità, evitare che ci sia una sovrapposizione fra saldi, semmai vendite promozionali, e fissare una data che possa essere quella che possa rappresentare per i consumatori una cosa importante. Poi il 6 di gennaio è stato fissato, pur essendo un festivo, come data comunque di avvio, perché in una giornata festiva comunque i consumatori proprio all'inizio hanno la possibilità di dedicare maggior tempo eventualmente, certo, possono andare in giro, a valutare la propria opportunità, e quindi non direi che non c'è da scandalizzarsi. Una giornata simbolica, certo, ecco, che può. Semmai c'è da scandalizzarsi sul fatto che probabilmente le aperture domenicali sono eccessive, che tante volte si aprono. Questo lo affrontiamo dopo, la fermo perché voglio dedicare due capitoli, diciamo, capitolo saldi, capitolo aperture festive, altrimenti confondiamo poi un po' troppo le acque. Quindi voi siete per mantenere l'evento saldo, perché c'è l'effetto annuncio, perché si può allegare una data specifica e speciale. Paolo Barberini, presidente Feder Distribuzione, federazione che rappresenta la grande distribuzione alimentare, ma non solo, voi siete dello stesso avviso sui saldi? Li manteniamo? Assolutamente sì, i saldi sono ormai riconosciuti dai consumatori e rappresentano un momento chiaro e definito, per cui anche temporalmente, secondo noi, va tenuto come possibilmente confermando la singola data, nel senso che se da quest'anno tutti quanti partono il 6 gennaio, indipendentemente da che giorno della settimana cade, è un giorno festivo per i clienti, lavorativo per, come diceva prima la rappresentante di Confcommercio, è un giorno lavorativo, è sempre stato per i commercianti, e speriamo la stessa cosa si faccia per il primo sabato di luglio. Semmai, secondo noi, quello che va allargato è il senso di stagionalità, quindi inserendo prodotti che hanno una rapida obsolescenza tecnologica, e dando quindi, parlo di elettronica per esempio, consentendo anche a questi prodotti di poter essere messi in saldo. Quindi per i saldi siamo assolutamente d'accordo. Per le promozioni noi vorremmo portare questa novità, nel senso, lasciando libere le aziende di poter fare promozioni in qualsiasi momento dell'anno, anche prima, nel senso, promozione non significa prezzo da saldo, significa prezzo promozionale. Questo darebbe la possibilità alle singole aziende di essere concorrenziali fra di loro e portare al pubblico un'offerta maggiore, ma soprattutto con prezzi migliori. Questo è quanto accade per esempio nel commercio alimentare, e ha dato assolutamente risultati molto positivi sia per le aziende, ma soprattutto per il pubblico. Se lei vede, i prezzi dei prodotti alimentari sono quelli che hanno comunque calmierato l'offerta al pubblico, sono 16 mesi che i prezzi sono in discesa, ed è sicuramente un settore, quello alimentare, in grande concorrenza. Quindi la nostra richiesta è quella di lasciare i saldi come sono, ma puntare su una liberalizzazione delle promozioni, dare la possibilità alle singole aziende di fare delle promozioni, sì, non con prezzi da saldo, ma con prezzi promozionali anche in periodi diversi da quelli classici e canonici. Abbiamo Stefano da Brescia, un ascoltatore, ha chiamato l'800 24 00 24. Vi ricordo che invece per votare c'è il sito internet. Lei è contrario ai saldi? Stefano, buongiorno. Io sì, no, sono contro l'apertura, più che altro. Sì, all'apertura, nel senso che, premessa, faccio l'educatore, ho sempre lavorato con i minori, ne facevo quasi una questione, diciamo, morale e sociale. Cioè lei dice l'apertura domenicale festiva, questo dice? Sì, l'apertura, ecco, continua ogni festa, domenica, nel senso che mi piacerebbe, ecco, parlo rispetto alla mia professione, che ci fosse un po' più tempo libero per anche stare con se stessi, nel senso con la famiglia, quindi con i bambini. Quindi che non bisognerebbe distrarsi andando in giro a fare acquisti, ecco, magari, esatto, una giornata diversa dalle altre. Esatto, quello sì. Poi a livello tecnico invece sono appunto a livello discorso controllo i saldi, ma ecco quello che stanno dicendo già, e quindi il mio era solo l'intervento proprio sotto questa luce. Profilo, diciamo, dell'educatore, diciamo. Esatto, Marco, esatto, da Torino, commerciante, i saldi andrebbero concentrati quando, dice lei, buongiorno? Marco da Torino l'abbiamo perso, se non ho capito male il suo concetto era concentrare i saldi nell'ultimo periodo della stagione, ma se riusciamo lo recuperiamo e ci facciamo spiegare il perché. Torniamo ai nostri ospiti, anzi no, abbiamo anche Leonardo da Milano, ci sono orari stabiliti da contratti collettivi, buongiorno Leonardo. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, ci dica. Ecco, io la riflessione che facevo era una riflessione piuttosto tecnica, visto che sono un consulente del lavoro e presidente dell'Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Milano. Niente, la mia riflessione era sulla, non tanto sulla questione dei saldi, piuttosto che sulla questione invece delle aperture domenicali. Il fatto di avere i negozi aperti, diciamo, tutta la settimana, uno risponde alle esigenze, quelle del mercato globale, visto che oggi comunque i grandi centri commerciali è tutto un po' l'indotto che c'è dietro, sono aperti ormai tutti i giorni, ecco, quasi, anzi, molti, tipo le palestre, sono aperte anche 24 ore su 24, alcune palestre. Però cioè, io la vedo da un punto di vista di esigenza lavorativa. Il fatto di avere aperti questi negozi 7 giorni alla settimana vuol dire che comunque i commercianti e chiaramente gli esercenti e coloro che vendono dei prodotti devono apprestare quindi delle persone, cioè devono fare in modo da mettere delle persone che possano sostituire quelle che hanno fatto già le loro 40 ore settimanali, quindi organizzare i turni, quindi rendere più efficiente la produzione, rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro, quindi ricorrere a ulteriori lavoratori, eventualmente anche in quelle che sono le forme flessibili del lavoro, tipo il lavoro a chiamata, che nel commercio, nel settore commercio è largamente utilizzato e potrebbe, certo, essere utilizzato ancora di più. Ecco, io la vedevo sotto questo aspetto. Poi, diciamo, l'opinione se essere d'accordo o meno, io non mi lei da consumatore, ecco, però cosa preferirebbe? Guardi, da consumatore, perché poi siamo tutti lavoratori, ma siamo anche, certo, consumatori, certo, dall'altra, certo, parte. Certo, io da consumatore vedrei comunque l'apertura domenicale. Io vado a far spesa, giustamente, come la maggior parte della gente che vive a Milano oppure in queste grandi città, il fine settimana, no? Che hanno famiglia, che hanno i figli, e quindi cercano di ritagliare il tempo disponibile che hanno nel fine settimana un po' per far tutto, quindi anche per fare la spesa, quindi anche per andarsi a comprare un giubbotto piuttosto che... Lei ci va nel fine settimana. L'educatore da Brescia la rimprovera per questo, senz'altro. Ora abbiamo la viabilità, proseguiamo subito dopo parlando per l'appunto di aperture domenicali e festive. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Eccolo Marco da Torino, commerciante. Allora ci esponga il suo punto di vista sui saldi, su quando, sì, dovrebbero essere fatti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dicevo, bisogna tornare, secondo me, a quello che erano i saldi, come sono chiamati i saldi di fine stagione, per cui farli a inizio gennaio, a ridosso in piena stagione, è assurdo. Per cui i saldi vanno concentrati in 3-4 settimane di vendita e posticipati a fine gennaio o primi febbraio per quanto riguarda questo periodo. E la stessa cosa per quanto riguarda luglio, concentrarli nel mese di agosto. Questo comporterebbe comunque poter continuare a lavorare in gennaio, che è piena stagione autunno-inverno, e i saldi così definiti di fine stagione andrebbero effettivamente a fine stagione. La seconda cosa, per quanto riguarda invece le aperture domenicali, sono chiaramente sempre tutte a favore della grande distribuzione, però la tendenza, guardando anche dagli Stati Uniti, è quella di tornare a ridurre il personale, perché ci sono talmente tanti centri commerciali che non riescono più a sostenere il costo di tutti i dipendenti, per cui molti in questo momento stanno cercando di ridurre le aperture domenicali, proprio perché la gente non può continuare a consumare all'infinito, lei dice. All'infinito, assolutamente. Io la ringrazio. Grazie a lei. Paolo Barberini, cosa ne dice di quest'ultima osservazione? C'è una certa difficoltà da parte dei centri commerciali in questo? Guardi, mi sembra l'osservazione, mi spiace contraddire il signor Marco da Torino, ma il mondo va verso le lunghe aperture, non la riduzione di queste. Io dico che il cliente ormai, come ha osservato già qualcun altro prima di me, ha la necessità di fare i propri acquisti nel momento in cui non solo più desidera, ma in cui può. e acquisti particolari, tipo non quelli banali del prodotto alimentare, ma molto spesso di un prodotto di elettronica, un tecnologico, comunque un capo d'abbigliamento, vengono fatti non di corsa quando si può fare la spesa tornando dall'ufficio, ma vengono preferibilmente fatti con un minimo di calma. Quindi le domeniche danno, soprattutto in questi settori, degli incassi importanti. Non possiamo pensare di costruire l'offerta sulle nostre esigenze, ma sono le aziende che devono realizzare i propri turni di lavoro, quelle che sono le esigenze dei consumatori. Quindi noi, come ben si sa, siamo sulla possibilità di essere aperti le domeniche. Perché? Perché con l'organizzazione, come diceva anche il consulente del lavoro prima, con questa porta a maggiore occupazione, con l'organizzazione e con la maggiore occupazione diamo la possibilità ai clienti di recepire le nostre offerte, i nostri negozi aperti per tutto l'arco della settimana. Quindi questo ci sembra creare il moderno. Non possiamo pensare di, come mi diceva prima qualcuno, sono contrari perché portano distrazione. Ormai le distrazioni non sono solo i centri commerciali, perché no dovremmo chiudere i cinema, spegnere le televisioni o quant'altro. Magari aggregazione sono diventati addirittura i centri commerciali, specialmente in alcune aree delle grandi città. Voglio dare la parola però anche a Mauro Bussoni, ricordo Confesercenti, lei prima ha iniziato il discorso delle aperture festive, adesso è il momento di farcelo, grazie, di concluderlo. Vede, il discorso è di evitare gli eccessi. Allora, le aperture domenicali, se sono accompagnate da... Ricordo, sono 8 al momento quelle previste, più il mese di dicembre. In realtà sono molte di più nel corso dell'anno e vengono gestite in modo differente. E se sono accompagnate... Che anche qui è tutto un discorso complicatissimo. Di natura culturale, iniziative di spettacoli e quant'altro hanno un senso, generalizzate non hanno un senso, ma per una ragione ben precisa. Prima non c'è comunque l'esigenza di consumare tanto, cioè non ci sono più quelle difficoltà a fare acquisti, anche perché non dimentichiamolo, le attività tengono aperte in un arco giornaliero che va molto spesso dalle 7 della mattina fino alle 21 della sera. L'altro è che comunque nei domenicali e nei festivi i consumi si spostano nei confronti delle grandi concentrazioni di natura commerciale, quindi i grandi centri commerciali fanno il 70%, l'80% del proprio fatturato proprio il sabato e la domenica. È ovvio che agendo in modo distorto sulle aperture domenicali, di fatto si trasferiscono quote di mercato dai piccoli esercizi alle grandi concentrazioni commerciali. Quindi forse però ci potrebbe essere adesso c'è in gran parte dell'anno e potrebbe restare una specie di spartizione tra durante la settimana per i centri storici e commerciali storici e per fuori settimana per gli altri. Ma vede, io sono sempre per fare le cose, non ci deve essere una contrapposizione, diciamo così, di natura ideologica fra piccolo esercizio e grande distribuzione. Sono due offerte completamente diverse che possono mantenere. Sono due offerte che si debbono integrare. L'importante è evitare che ci sia uno spostamento eccessivo a favore di uno anziché l'altro. Quindi le aperture domenicali vanno gestite con intelligenza, vanno gestite in modo equilibrato. È vero che comunque rappresentano un'opportunità ulteriore per i consumatori, ma non sono comunque un aspetto dal punto di vista dei consumi indispensabili, quindi gestiamole in modo intelligente. Nei comuni turistici hanno senso, l'afflusso turistico ha senso, nelle città che non hanno vocazione turistica vanno accompagnate da iniziative di natura particolare che permettano comunque a tutti coloro che operano nel campo della distribuzione di poter interagire, di mettersi con in i gioco consumatori almeno, certo, in modo equilibrato. Certo. Orazio da Pescara, qui invece il dualismo tra piccolo negozio e grande centro commerciale ritorna. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Io mi vorrei riferirmi proprio al signor Barberini. Niente, io per me questo problema saldi non esiste. Non esiste più proprio il saldo. Lei il saldo è anche commerciante o solo consumatore? Ho due aziende. Ecco. Ho due aziende. Se mi spiegate perché alla grande distribuzione è consentito fare sottocosti feroci anche a livello di 80% dal prezzo di acquisto, mi dica lei i saldi a cosa servono. Se durante l'anno, io faccio l'esempio di Pescara, Pescara sono 150.000 abitanti, ci sono 30 centri commerciali da oltre 10.000 metri che fanno ogni mese uno a testa, fa il sottocosto e prende, faccio un esempio, ora non so se posso citare un'azienda, però io ho acquistato un paio di Timberland a settembre a 90 euro sotto costo, quando tutti i negozi lo vendono a 200 euro. Quindi che saldi deve fare quel povero commerciante? Se vuole inseguire, famiglia? Certo. Guardi, se vuole. Cioè, il vero problema, io sono 30 anni che faccio questo lavoro e mio padre, mio nonno e mio bisnonno, la grande distribuzione ha ucciso l'Italia. Io mi riferisco sia al Barberino. Orazio, la devo fermare. C'è anche Roberto da Latina, commerciante come lei, che ci vuole dire la sua. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, io volevo anche riallacciarmi al signore che ha parlato poc'anzi, perché la realtà, in effetti, dei centri commerciali è schiacciante per noi piccole attività. La mia famiglia da tre generazioni, come non dico di prima, lavora in questo mondo e i saldi sono l'unica opportunità che abbiamo noi per poter esitare le rimanenze di magazzino. Certo, farle il 6 di gennaio non è che ci aiuta più di tanto, perché ci tronca la stagione completamente. Infatti la stagione invernale ormai è diventata, tra virgolette, quasi negativa per noi piccoli commercianti, perché non riusciamo ad esitare il magazzino. Senta, lei ha dipendenti per caso o è solo come da no, solo? Sì. Come no, certo che se dovesse aprire tutte le domeniche, come se la caverebbe? Punto interrogativo? Diciamo che io me la cavo, perché io ho un'attività sia a Latina che in un'altra cittadina che da più di 50 anni aprono la domenica mattina e ce la caviamo, facciamo uno sforzo, cerchiamo di mantenere gli impieghi, però le devo dire che quest'anno abbiamo veramente avuto difficoltà nel tenere le attività aperte per la tornazione del personale e tutto quanto. Capisco che le piccole realtà hanno queste difficoltà di fronte alla grande distribuzione che sarebbe aperta anche a mezzanotte, però ripeto, mentre una bella cosa invece che la Regione Lazio ha fatto è di finanziare i centri commerciali naturali, cioè cercando di riportare i cittadini nei centri storici. A Latina c'è stato questo finanziamento, sono state create delle piccole cose, sarà un inizio anche a fondi in un'altra cittadina della provincia, cioè, di Latina. No, ma in tante città d'Italia c'è questa iniziativa. Io spero, perché noi diamo vita al territorio, i centri commerciali. Mi faccia chiudere la trasmissione con Donatella, sì, Prampolini, presidente della Confcommercio di Reggio Emilia. Lì da voi si promuove il centro storico, come la vede, insomma, con le ultime telefonate che abbiamo ascoltato? Ma guardi, io purtroppo mi trovo completamente d'accordo con Confesercenti, assolutamente non d'accordo col collega Barberini. Perché dice purtroppo si trova d'accordo perché, con Confesercenti? Perché siamo fratelli in casa con Commercio, quindi dovremmo in teoria avere una posizione abbastanza condivisa, però io credo che, come ha detto il collega di Confesercenti, oggi il consumatore abbia tutte le opportunità per fare i propri acquisti con gli orari di apertura. Ricordo che il popolo italiano si è già espresso nel 95 con il referendum, dove il fronte del no, quindi contro la liberalizzazione totale degli orari di apertura, ha vinto, e quindi credo che ci si debba anche adeguare a quella che è la volontà, perché sono stati gli stessi italiani a dire che oggi c'è sufficienza di possibilità per fare i propri acquisti. Quindi insomma credo che le 8 domeniche di apertura siano più che sufficienti, anzi forse un pochino troppo. Noi abbiamo anche fatto il tentativo di differenziare le domeniche di apertura in centro storico rispetto ai centri commerciali, però come le dicevo effettivamente l'acquisto domenicale non è un acquisto ulteriore rispetto a quello settimanale, è semplicemente una polverizzazione di quello che è il totale del venduto, quindi di fatto va contro assolutamente, sì, non un'efficienza delle nostre aziende. Allora, cioè, io credo che ci si debba mettere intorno a un tavolo, trovare il giusto equilibrio, che credo che oggi comunque ci sia. È importantissimo un'unificazione rispetto all'orario, alla data di inizio dei saldi, perché effettivamente i saldi se hanno no ci sono i flussi perché migratori, certo, di persone. Hanno un senso, perché come diceva un ascoltatore prima, i saldi sono lo smaltimento delle scorte di fine stagione, quindi non è un'offerta promozionale come le altre, ed è ovvio che non è che un'attività possa essere in saldo tutto l'anno. Quindi insomma mettiamoci intorno a un tavolo per discutere, però insomma alla deriva, al liberismo totale, noi saremo sempre... La contrasterete sempre. I nostri ascoltatori possono continuare a votare sul nostro sito internet, per ora la maggioranza di loro vorrebbe negozi aperti tutto l'anno e saldi in tutti i momenti, e a ciascuno di loro ricordo che appunto siamo consumatori ma anche lavoratori, e quindi mettetevi nei panni di chi questa offerta ve la fa prima di votare. Grazie a tutti i nostri ospiti, grazie ad Antonella Migliaccio in assistenza, a Peter Bescapè in regia, da Laura Bettini. Appuntamento a domani, noi ci siamo il 6 di gennaio.